L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Eccola. La bottiglia di plastica inquina al mare, uccide le tartarughe. Che carattere. Ma in mare la plastica non ci finisce mica da sola. Basta usare e non gettare. Usa e ricicla. C'è una cosa che possiamo fare. La differenziata. La differenza. Si fa presto a dire raccolta differenziata. Benvenuti a tutti a Darwin. Ciao a tutti, sì, hai ragione. Ogni materiale infatti ha una storia a sé. Questo video con la voce che sicuramente avrete riconosciuto di Diego Battantuono introduce l'argomento di oggi. Ecco, il riciclo della plastica. In Italia c'è Corepla, il consorzio per il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. E con noi oggi il direttore ricerca e sviluppo di Corepla, Antonio Protopappa. Benvenuto. Grazie, grazie a voi per l'invito. Cosa significa riciclare la plastica? Cioè, come si fa? Beh, parlare di riciclo non è mai semplice, anche se è una parola che viene usata molto spesso. Innanzitutto, la cosa principale da tenere presente è che non si parla di un riciclo del materiale, ma si parla di riciclare dei beni, dei prodotti. E per poterli riciclare, ovviamente, ci sono una serie di attività che devono essere svolte. La prima, la più importante, è partecipare in una raccolta differenziata. Questo succede in Italia, soprattutto nel mondo degli imballaggi. Successivamente, siccome le plastiche sono numerose, è necessario che questi beni vengano separati secondo quella che è la loro composizione, per poterli poi avviare a quello che è la vera e propria attività di riciclo. Normalmente con questa attività si intende un recupero di materia, cioè si va a riprendere la qualità del materiale tal quale, la si trasforma magari in scaglie o in granuli, e come ultimo approccio ovviamente è necessario che poi questi granuli, queste scaglie vengano utilizzate dalle imprese per trasformarli in nuovi prodotti, in nuovi beni che verranno poi inseriti e messi sul mercato. E tecnicamente lo definiamo come riciclo meccanico. Appunto, il riciclo meccanico è al momento, dice, quello più diffuso. Però ovviamente state lavorando dal punto di vista della ricerca anche per sviluppare altri metodi. E quello su cui state lavorando, il più promettente, è il riciclo chimico. Ma come si fa? Beh, il riciclo chimico, diciamo, si differenzia da quello meccanico soprattutto perché si interviene sulla struttura molecolare del materiale. Quindi è un'attività complementare al riciclo meccanico, non è sostitutiva. Anche perché tendenzialmente è più complessa sia in termini di apparecchiature da usare, ma anche in termini di energia consumata. Quindi è chiaro che se andiamo a fare una scala di gerarchia, il riciclo meccanico viene sempre prima del riciclo chimico. All'interno poi della parola riciclo chimico si differenziano diverse tecnologie, perché non ce n'è soltanto una. Da questo punto di vista le potremmo dividere in tre grandi fasce. La prima è quella della dissoluzione in solvente, per cui i materiali vengono sciolti, tra parentesi, all'interno di un solvente e poi ritrasformati in una nuova materia prima. L'altra può essere la depolimerizzazione, che viene comunemente utilizzata quando si hanno dei flussi monomateriale, cioè quando siamo in grado di avere un prodotto che sia conforme da un punto di vista della composizione ad un unico polimero. Questo succede per esempio con il PET, classico materiale che viene usato per esempio per le vaschette, quelle del prosciutto, del formaggio, oppure per le bottiglie del latte, che sono difficilmente recuperabili in altro modo. Poi invece esiste una terza strada, una terza fascia, che è quella della degradazione termica, che poi si può declinare con altre tecnologie un pochino più complesse da un punto di vista della nomenclatura, che possono essere la pirolisi, che si fa a una temperatura intermedia di 400-500 gradi, oppure addirittura si può arrivare alla vera e propria gasificazione, che invece è una tecnologia, un processo, che opera sopra i 1600 gradi e porta a quella che è un po', diciamo, la decomposizione completa del materiale di partenza. Ecco, questa strada chimica c'è dal punto di vista, diciamo, teorico, però è ancora poco diffusa. Come mai non è appunto più utilizzata? Siccome è comunque una tecnologia ad alto consumo energetico, si è sempre privilegiato ovviamente il cosiddetto riciclo meccanico, quindi il recupero di materia tal quale. Oggi però questa tecnologia di riciclo meccanico non è più sufficiente da sola a garantire il raggiungimento degli obiettivi di riciclo che ci siamo posti sia come Unione Europea che come Paese. E quindi è necessario affiancare al riciclo meccanico delle nuove tecnologie. Questo vale soprattutto per i residui delle attività di riciclo e di selezione, che sono le cosiddette plastiche miste eterogenee, che tutti ormai abbiamo imparato a chiamare plasmix, perché queste plastiche effettivamente con il riciclo meccanico non sono recuperabili. È ovvio che siccome siamo ancora in una fase di start-up, diciamo, siamo in una fase ancora abbastanza prematura, non ci sono in Italia in questo momento degli impianti industriali, ma molte aziende stanno studiando nuovi investimenti in questo campo. Visto che appunto i materiali da recuperare sono tanti, proviamo a guardare ancora più avanti. E un altro metodo che si sta studiando all'avanguardia è il riciclo biologico, cioè con l'utilizzo di enzimi o microorganismi. A che punto siamo qui con la ricerca? Fino a pochi anni fa era addirittura impensabile una biodegradazione delle plastiche di origine fossile. Questa degradazione era lasciata esclusivamente alle cosiddette bioplastiche, cioè plastiche nate per essere effettivamente degradate in forma, diciamo, organica. Oggi invece esistono già delle nuove tecnologie, in particolare sviluppate già a livello semi-industriale in Francia, dove si riesce a degradare, utilizzando degli enzimi prodotti dai microrganismi, la plastica proveniente per esempio dalle bottiglie, quella che abbiamo chiamato prima PET. Ma anche in Italia, da questo punto di vista, stiamo facendo dei progressi. Noi di Corepla abbiamo per esempio avviato una collaborazione con l'Università di Verona, con il professor Vallini, proprio per studiare la degradazione per via organica attraverso l'utilizzo di enzimi, sempre del PET. Una delle condizioni ovviamente fondamentali però è la possibilità di selezionare il materiale prima di poterlo avviare a questo tipo di recupero organico, perché chiaramente ci deve essere una composizione univoca. Non possiamo applicare, almeno per oggi, questa tecnologia direttamente alle plastiche miste eterogenee, ma dobbiamo utilizzare un flusso monomateriale. Quindi davvero buonissima ricerca, direttore. Grazie, grazie a voi per l'invito e buon lavoro. Vabbè, Chiara, mi pare che abbiamo spiegato che l'obiettivo sui rifiuti è che non siano più rifiuti. Non devono più essere rifiuti, devono diventare risorse, rivivere come nuovi materiali, giustamente mi viene da dire. Ok, salutiamo tutti perché la puntata si conclude qui, ma noi ci sentiamo prestissimo, come sempre dal lunedì al venerdì alle 20:50 per una nuova puntata di Darwin. Ciao! Ciao Chiara, un saluto a tutti! Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.